comunque. Chissà cosa male successe. E niente, così è forse. Stasera ti stava chiamando Gianni Cippone. Non so che ora, forse prima di scendere giù a fare quella riparazione. Ti stava chiamando Gianni Cippone, stava rientrando. Infatti non ho avuto neanche il tempo di rispondere, dirle che ti è allontanato, che è uscito là. È positivo. Oh, gli ho fatto chiamata, magari lui mi ha ascoltato quando l'ho chiamato, magari era lì a Monorra, a Corsuine, Pozza Maggiore, con le trovarie, senz'altro lì mi ha sentito alla grande, e se ne vede poi lui è arrivato nei pressi, diciamo, ai paraggi, e ha fatto chiamata. E io va bene, così l'idea, ci si ascolta la mattina. Non ci stanno problemi. Lei avrà chiamato senza aver ascoltato, se no non avrebbe chiamato. Siamo la quarta emergenza, Alberto Camparino, Granatina. E inizia. Vabbè. È felice. Secondo me tu sono dei cattelucci. Bontà sua. E tu vieni qua e ti bevi un bicchiere di Angelo Rubio, quando sei a casa tua ti fai una mina. Com'è sta cosa? Casa mia, la differenza tra casa mia e casa tua è che il letto da casa tua è distante 3 km, il letto da casa mia è distante 30 metri, anzi, anche di meno. Intelligenza elettrici, sì, va bene, va bene. Per la prossima volta mi organizzo meglio allora, te lo compro anche io il campanino, visto che ti fa fare il routine dopo cena. Campanino in bicicletta, sai come è fatta la bicicletta? Sì, come quella del manubrio senza sellino. Quella è la tua bicicletta? No, è quella di Fantuzzi, se ti ricordi, diceva solo il pedale del manubrio, è andato a saltare e gli è entrato il pomello nel bucios. Non ridere, non ridere, che fa peggio. Eppure se ne faccio fare una benedizione te la faccio una cosa blanca, non mi metti che cresci i burri, beh, se non ti cresci dentro tutto ti cresci. Lasciali crescere come devono crescere. Guarda, hai visto come c'è la cosa, quello che abbiamo visto l'altra volta, diciamo che il parrucchino girato alla rovescia, non sei neanche accorto. Miscia, non lo fare ridere, non lo fare ridere, claro, non lo fare ridere. Ma te lo metti tu, diceva il miscia, va via, va anche via dall'inverso, siamo anche a vedere, te qua, va via, la gola davanti, e a te che sembrava proprio un culo di scimmia. Ricordami una cosa, Cla, ma dove che avevate fatto quelle magliette che domani mattina ci passo? In via Savoia, Presidente, ho già detto 10 volte, in via Savoia, via, non Margherita, via Savoia, nella tua zona, capito? Lune sole, a sinistra, e scendi prima del semaforo, di fronte alla farmacia. Via Savoia di fronte alla farmacia, aspetta un attimino. Non è sole, siamo a forma quale, siamo a del bullying. Esatto, se non fai bullying scendi di tutto giù quella via Savoia, attraversi l'incrocio con via Prunizzetta, 20 metri a destra c'è la tipografia, praticamente dove c'è il laboratorio di Massimiliano Archimede, a fianco. E si chiama, non te lo ricordi il negozio? No, non mi ricordo il negozio perché ha fatto tutto Massimiliano. E comunque se ci vuoi andare di pomeriggio ci andiamo domani sera assieme, invece di andarci domani mattina, che mi conosco, così porto la maglietta mia e le facciamo fare uguali al ricamo. Capito, io non la facciamo, vediamo un attimo, ma gli puoi portare sia magliette tue che magliette, cioè che loro, magliette che spacciano loro, diciamo. Le magliette le hanno messe loro, le polo ce le hanno loro, c'hanno tutti i colori, gialle, bianche, blu, rosse, verdi, arancioni, capito? Polo, magliette, maniche lunghe, maniche corte, giubbotti. prodotti Berrettini, ti fanno vedere tutto sul posto e tu scegli il colore e dici voglio queste, capito? Loro te le fanno. Poi c'è quella scritta anche nelle mutande, te lo fanno anche nelle mutande. Quelle sono già timbrate, non ti preoccupare, 5 minuti per me, non cambiate canale. Cosa è conveniente da scoprire? Fatti un'altra bicicletta, fra poco ci senza catena tu. E non c'è mai, ma non c'è mai niente, la tua. Traffico dal porto in uscita per niente, si può mettere a paragonare il Bloario con lo Porto Torso, perché è tutta un'altra città, tutto lì. E io, insomma, lì per Rappa sempre lui la vuole vincere questo sindaco di Bloario, dai. Aspetta che stavo spegnendo l'amplificatore grande, così non ci sono il vento, mi stava arrivando un caldo allucinante. Che silenzio. Niente, quindi è rimasto un po' così, no? Mi dico, vabbè, fregate, Marco, sei. Adesso c'è una palla di otto, ma non te lo faccio riportare dove era. Fatti, no? Attenzione bicicletta! Sanno ti deve essere un minuto più occhiate. Fresca, fuori sì, fuori ha incubato troppo oggi. forse che sono in alto. Sicuramente giù nella zona tua c'è da morire. Da morire. Allora. Aspetta, vabbè, non che cavolo l'ho messo, boh. Ma non c'è. Sì, ma guarda, ho provato 31 gradi la tua cameretta. Qua io ne ho 25, oh, c'è la finestra aperta, sono aperto, sto aperto, e l'aria sta girando, già sta girando, vai. Positivo, forse a parlogero. Vabbè. Quindi quel segnale andava bene l'altro giorno, lui. No, mi ha fatto una domanda a Tonello, mi ha detto, ma tutti quegli amplificatori che c'è così grandi, ma funzionano? Mi ha detto, no, boh, non lo so se funziona, aspetta, fammi commutare l'antenna e te lo faccio vedere se funziona. E si è aspettato, tu mi aspetta un momento a Luca, che tu dici lui avesse funzionato. Infatti ti avevo appena nominato, perché c'è un riferimento tuo, io no? Dì da Luca avesse funzionato. Che hanno mai detto 40 e più, ma gli sta funziona. Caldo, caldo, caldo, Antofa, caldo. Attenzione, attenzione ai canali 10. Attenzione 10 perché è rimasto in ascolto. Ma cos'è questo silenzio sul mio canale? Dopodiché che c'è Luca, Luca. Il tuo canale come te lo compri? Già comprato, non c'è problema, quanto costa? Vai. Soldino, non c'è problema. A segno in bianco. Luca! Piaccio anche. Cosa c'è? Ma sempre per strada, mio Lu. Come sta guardando il vento? Ma sempre per strada. No, faccio muore di casa, non faccio proprio niente. Si muore di casa, tu, 31 gradi qua adesso ci sono. 31 gradi. Ma ci sto, mio Lu. Allora, qua. Te lo so, ti ho abbracciato. Cazzo di aro, dico qua. incontro di persona, quando ci sentiamo al telefono, te lo dico. Chiedilo se te lo va, perché io non mi voglio mettere in mezzo. Capito? Già, ti ripeto, ho fatto un errore che non farò mai più nella mia vita. Mai più, mai più. Perché ho una bella radio, molto bella, non c'è niente da dire, però la posso usare solo in SSB, perché lei mi fa completamente cagare. Capito? Contro il 440 che lavora in SSB, lavora in FM, lavora bene in AM. Quindi me ne sono veramente pentito. Fortunatamente il mio era una stronzata, perché era un condensatore da cambiare, e quindi l'ho sistemato ed è a posto, se no sei rimasto senza la radio, veramente. È onda, vediamo un po', dai, perché la parliamo conferma. Allora, prima mi hanno confermato le analisi che sono a posto, ma per periodo sono a posto, non ho niente di anomalo. Prima arrivando però mi chiamano, perché l'anno scorso un mese hanno aspettato a mandare le analisi. Invece quanto mi ha detto uno che abita vicino a casa, hai visto già lavorando. 3 giorni fanno tutto. Adesso pensa a fare quello che devi fare, che la cosa primaria è più importante del 440. E poi ci mettiamo in movimento, già lo sai, come abbiamo sempre fatto per te, ne tolgo i cosi da sottoterra, i morti, perché faccio un giro di telefonate e lo prendiamo alla grande, però il mio no, perché mi serve troppo. Quella è una radio, io sono molto affezionato, ti ripeto, già ne ho fatto una e non la volevo volare. Vabbè, pazienza, non avevo nessuna attenzione, anzi, veramente mi ha aiutato lui pure a fine. Comunque, va bene così, non si piange più sotto, però una me la devo tenere, soprattutto questa, che già lo sai, il lavoro che c'è in questa radio. Comunque già te la procuro, se è quello che vuoi già te la procuro, non c'è problema. Intanto il 140 tu me lo ritiro io. Ma perfetta. Lui coprova la via e vabbè, adesso c'è un po' di colore sopra. Non vale una pulizia, vabbè, non è molto sporco. Ti faccio il pennellino, come fai giù, bene. E sicuramente sarà da aprire lento, dove arriva la pulizia, leggera. E niente di che, non. Ma ecco, sì, ora sì. Tutto qua. Allora, quella carta è clara, non c'è gli altri, niente. Ma non vero, quella roba che c'era da prima, non avevano fatto niente. Tutto quello che me l'hai dato, l'ho messa qua, punto e basta, non ho fatto nulla. Non ho mai toccato niente dentro, mai. Ripeto, l'unica cosa che ho fatto l'ho solo pulita. Infatti quello me l'ha detto io, perché so di chi era la mia, quindi non c'è problema. Non c'è nessun problema, me la ritiro io, e con la differenza ti procuro il 440. Intanto io ho la T250 anche qui, il 430 lo stacco un po', le collego la T250 al 140, quello lì, e lo facciamo andare, e così vedo che differenza c'è da quello mio a quello. Non mi ricordo che lavoro era stato fatto a quello di qui. Perché cosa vuole Antonio Lode? Quella radio vuole. Non è basta quelle che ha ancora, stai comprando 140, se mi fa la collezione. Quindi non ho scappato, va. È fuggito. E ogni tanto va, beve, mangia e poi ritorna, beve, mangia e poi ritorna, tanto butta stanotte. Poi alle 11 vado là, quella roba me l'ho presa. dopo, quando devo fare questa cosa qua, niente. Speriamo il più presto possibile, va, almeno. Sono un po' più tranquillo, cara. Vabbè, c'è l'obbligo, quando c'è lavoro c'è tutto. E dici un quarto, so. Fra un po' spiego tutto e me lo vado a andare anche io. Consumare, perché io ho l'80% di sconto, quindi la devo consumare su 2500 kW e quindi non mi creano problemi lasciarli accese, dai, li avrei accese lo stesso, ma però tengo quasi accese perché devo consumare. Lo so, poi consumano parecchio. A me mi arrivavano certe batoste giù via Tasca allucinante. Infatti gli ho detto che ricordino di stare attento perché ti spella. A freddo non tanto, ma a caldo ti ammazza. A caldo ti ammazza, è un servimento allucinante. Però quando ci vuole, ti puoi privare come l'aria condizionata della macchina, no? Molti non accendono perché consuma più gasolio o benzina. Ma se ce l'hai la devi accendere. Io faccio 8 ore con l'aria condizionata accesa, figurati, ma usami una frutti. Ce la facciamo lì dal caldo per consumare 10 euro di gasolio in più, ma chi se ne frega. Ecco, registrato, sì, no, ma sono d'accordo. Ma tu, io quando sono a casa, alla d'estate e d'inverno non c'è problema, perché d'inverno c'ho riscaldamenti, però d'estate io come entro a casa io c'è il condizionatore acceso, quando c'è questo caldo come oggi la notte rimane acceso tutta la notte e me ne può fregare di meno, capito? Non c'è cosa che tenga, poi ti ripeto, io devo consumare su un acerottotto, cioè l'80% di sconto sull'energia elettrica, quindi per forza di cosa la devo consumare. Comunque anche se non ce l'avrei avuta sarebbero rimaste accese, perché dormire la notte vuol dire che puoi stare bene tutto il giorno. Avanti il greco. Positivo, buonasera, ma spieghiamo da questa parte. Claudio, ti volevo chiedere una gentilezza, sto provando una radio, cosa ti sembra, a tuo parere personale, segnale radio, com'è? Ciao Massimiliano Bulldozer, buonasera e ben ascoltato. Per me è ottima, Radio 5 è perfetta, segnale 9.25. Ok, là, una 48 normale, capito? Ho appena aperto la LC, giusto per provarla com'era. Solo questo volevo capire. Massimiliano, ottima, Radio 5 è perfetta, bella presente, tonalità medio-bassi, molto bella, Fabri. Come lo senti? Molto bella, bella proprio, quella. Se il 48 non c'è nemmeno il doppio modulatore, va molto bene, è veramente bella. Con questo non c'è proprio niente, Fabri, buonasera, ben ascoltato anche a te. Niente, una radio normalissima, con 4 watt e mezzo. Non c'ha niente, capito? C'ha giusto FM e basta, non altro, 40 canali normali, l'unica cosa che gli ho fatto è la mascherina di blu e Claudio non ha. Cane morto! Vabbè, ma questo è il modello, sia dopo il tuo, va. Quindi era tutto verde, io gli ho fatto gli occhi celesti. Bella, vabbè, ma dimmi la cambia la mascherina, vabbè, vedi che la compagnia ce me la cambia in due. Non avevo nulla, ma c'ha più da pigliarla. Ascolta, ma tu domani ci sei a casa, che siccome c'è Gambino voleva salire a vedere la tua stazione. Se salite mi fa piacere, così se ci porta quella radio, io non ho avuto tempo di passarci, che sto scendendo sempre tardi, oggi voi esci da voi, chi so che nomi, Massimiliano, è una rottura di scatole, perché c'è troppo caldo e non aggiunga, una volta che arrivo metto i pantaloncini e mi siedo, manco i canonati me ne alzano. Venite, io dopo, lo sai, dopo quell'ora sono a casa e non c'è problema. Beh, lui chiude alle 8, ti avviso già, capito che esce a quell'ora dal lavoro. Adesso si sta portando via quel Savelta per vedere quel problemino che ha, che lo controlla, e poi se riesce fa funzionare anche quello smitterino che c'ha là. Io ti devo venire, gli ho tratto domani, se mi posso memorizzare o delle visore domani sera, e non riesco a trovare tutti i canali, come si fa a memorizzare il colore grande nuovo, a memorizzare i canali del... quelli nuovi, dai, la 5 e tutto, quelli piccoli hanno il mio canale di chi si umano, e mi piace sempre incazzato, fallo venire, porto, alle 8, alle 9, alle 10, allora ti piace. Poi esco dal lavoro, magari ci vediamo, là. Al limite. niente, ti facciamo una bassa prima di arrivare. Non c'è problema, Massimiliano, tanto sono qua, mi sentirai tardi. Non c'è problema, noi prima delle 9 intanto non ceniamo, non ti preoccupare. Se no, portati da mangiare e ti rimani qua. E allora, racconto il comune. No, ti ho detto portati da mangiare, non mi butti a me, mi chiamo Francesco io. Dai, mi fa piacere se salite, Massimiliano, non c'è problema. Porta le gambine così, le devo iniziare a darle qualcosa da fare, se no io tra il tempo e la voglia che ho non riesco mai a passarci, così ne approfitto. Ehi, allora, ok, andrà bene. Dai, vi lascio che tanto siamo qua, capito, stiamo festeggiando e... festeggiando, oddio. Siamo tutti qua, là. Riprendi tu, Fabrizio, dai. Buona serata, buona continuazione, magari mi rimango poi l'ascolto. Siamo a 4 Heineken e 6 Campari. Ciao, basso. Ehi, lo credo. Senti, tu li butti, tu siamo ottimi. Te li abito 7 birre e 3 Campari, 6 Campari. Stanotte, ti sto dicendo, ti si fa la testa culo di scimmia a te. Siete. No, Antonio Grode. Lo bacio. Ui, per carità di Dio. Bevuto. Giù Grode, Asto, dammi un controllo con questa radio, fa la cortesia, normale. Sì, Santiago 920 e radio non classificata. Lo bacio. Va bene, là, ok. Riprendi tu, Falchetto, dai, vi saluto a tutti. Comunque, io quando faccio i saluti vi saluto a tutti. Non è bello chiudere la radio, io saluto a tutti, quell'altro un saluto da circolare a tutti. Ti ho sentito ieri, non sono voluto intervenire. A me? Però a me. Già l'ho fatto apposta, glielo so che stavi sentendo, l'ho detto apposta. Ho chiamato Massimiliano oggi verso le 6, ma non c'è lavoro. Ero acceso verso le 6:20 così, sono andato via quell'ora dal cantiere, capito? Ciao, Massimiliano. Non è, Massimiliano, non è cattiveria, è mandronia, per non chiamare tutti, mi saluta a tutti. Ma lo sa perché, Anto? Perché l'ho già parcheggiato. Ti ripeto, io uso le cuffiette in macchina, e c'era mia moglie, aveva già speso la bambina giù e stava aspettando il marciapiede per non dire ciao Antonio, ciao Carlo, ho fatto tutta la tarantella, ho detto un saluto circolare a tutti, ho chiuso, capito? No, ma si vediamo, già lo so, sto scherzando, ci mancherebbe, già lo sai, dai. Già lo sai, era Sisa, non c'è problema. Dai, ok, vi saluto a tutti cordialmente, dai. Circolare a tutti, salutori belli. Buon 194, come dice Leoncino. Vai tu, fai che riprendi, va. Ciao, Sergio. Buon tutto, buon 194, come lo fai, buon tutto. Salutare a te, guarda. Vai, adesso. Quando mi danno fastidio, questi che salutano tutti. Boh, vabbè. Buon 144, buon 144. Buon QRT, ci sentiamo più presto, ma ci vediamo. Buon proseguimento di serata, dai. Sono quanti in lei, Dio. Ciao, sono Tozzi, guarda che ti aspetto domani, Non c'è problema, sono qua a casa. Ciao, buona serata a te, famiglia, a tutti. Auguri al festeggiato e ciao, passo e chiudo. Ciao, buona serata, ciao. Allora, il Grode, guarda che c'è anche Fabrizio, avanti Fabrizio. Ciao Grode, ben sentito. Ciao Fabri, scusate, mi stavo andando a stappare un camparino che ho la gola secca. Ciao Fabri, ben sentito, ben ascoltato, Allora, se fate da bravi, faccio a prendervi, ce ne beviamo una in piazza Santa Maria. Tutta notte ti pisci i mondani. Poi, il piano di campare, ti bevo, vai che lo vie. Ma bevo Campari, guarda, se c'è una cosa proprio non bevo Campari, bitta Campari con l'acqua sì, ghiaccio arancio, perché mi dissetta, ma proprio bitta Campari, un sito gamuso, ma va via. L'ultima volta, Fabio, l'ultima volta che ci siamo visti con Claudia, stava bevendo Porto, mischiato a vino bianco e con pezzi di pesca dentro, te ne rendi conto? Quindi si fa male, caro. Campari granatina, ma proprio ci vengono i pezzettini di ghiaccio, il limone di brutto, poi la rosciura la colmi con un paio di salattini e fatta. Vai, vai, bevitore, sì. Dalla faccia di vedere che lo stai solo scherzando, boh. Per come ti ho visto io, ti conosco io, tu puoi bere, sì, si vede che sei un amante di vini buoni sicuramente, quindi un buon bicchiere di vino non fa male, ma che tu bevi birra Campari, no, non mi quadra me la cosa, Fabri, tu che lo conosci cosa ti sembra? No, non mi sembra, mi sembra della specie mia, che io per esempio vini, scusi, ne bevo quasi niente, cioè vini imbottigliati che conosco, oppure di qualche cantina particolare, perché io sono del parere che l'alcol fa male e a me piace, voglio dire, che mi bermi un bel distillato, adesso un buon whisky, un buona grappa barricata, deve essere veramente buono, perché voglio dire, l'alcol fa male, allora quando bevo devo bere roba buona, per bere birra e Campari così la mattina presto non fa, capito? Inglese disse, nella mia vita tutti i miei soldi, o la maggior parte dei miei soldi li ho spesi in donne e alcol, tutto il resto l'ho buttato. Quindi tutto il resto l'hai vomitato? No, l'ho buttato nel senso che il metodo migliore per spendere i soldi è quello, o donne o alcol. Ma non sono d'accordo, comunque, io ti posso dire, qualche anno fa il vino lo bevevo molto, molto, molto, e Luca lo sa, anche Antonio Falchetto qualche volta già mi ha visto. Poi ho detto basta, finito. E sinceramente parlando, l'unica occasione che abbiamo avuto di bere il vino è il giorno che tu eri qua, basta. Se no io non ne ho più vino, né a casa, nessuna parte. Quell'altra occasione di Antonio dove mi ha portato quel fiaschettino buonissimo, tra l'altro, vedi, quello l'avrei preso da tenere a casa magari per le occasioni eccetera, perché è veramente buono, da pasto, un po' fortino, ma comunque si vede che è un buon vinello, capito? Tu immaginati che anche lui è ancora in frigo, quindi vedi bene che pesche non ce ne ho messo dentro. Hai messo le pesche, ti ho visto, hai fatto la sangria col porto. E comunque no, devo dire la verità, ha ragione Fabrizio, a me piacciono, io sono un degustatore, non un bevitore, quindi vado sulla qualità e non sulla quantità, assolutamente. Sì, ma anche io, ma è vero, è così, io sì, ragazzi, a me per esempio piacciono molto i superalcolici, più che altro i bourbon, quella roba lì, ma io mi ricordo se da ragazzino penso andavo ad ascoltare musica nei locali, a me piace il jazz, questa roba qua, mi fermavo, ecco, a me non è quello che prende il whisketto, tanto io mi fermo, ascoltavo verso il brano e mi bevevo il whisketto, ma lo assaporavo più che berlo, capito? Non è così, poi alla fine, sai, se vuoi tenere soprattutto la forma fisica, poi lascia perdere, ma ti ripeto, quelli che sono in rota qua, che mi conosco fisicamente, non siamo sfatti, chi si sfonda sono quelli che bevono birra, buttatura, e allora un attimino la panzetta ti esce fuori, quindi qua abbiamo dei degustatori, anche Claudio lo è che degusta male, però. No, Fabri, ma tu la pesca col vino l'hai mai mangiata? Sì che l'ho assaggiata, ma non ne vado matto, io il vino lo bevo col vino e la pesca la mangio con la pesca. Esatto, però il giorno mi ho mandato una bottiglia di Angelo Luglio e siccome ho visto che aveva questo gusto abbastanza gradevole, ho fatto due pezzettini di pesca e li ho messi dentro e me l'ho ciullata e mi ha detto cosa, che era sprecato qui e là, ma l'ho solo gustata, poi basta, mi stava facendo tutti i giorni, tanto è vero che ancora in frigo, così quando vieni te lo bevi questo Angelo Luglio, se no te l'ho detto, ti faccio la sangria col porco in mezzo e lo degusti così. Ho detto, quando gli ho portato, ho detto, cos'è porto, va, porta di zio. protagonista della cosa e ha capito il valore della cosa, del vino. Vabbè, no. E vabbè, non è finita il babbo, dai. Insomma, perché io ti volevo far degustare un vino bianco di gradimento inferiore al porto e quindi lì mi hai criticato. Va bene, non c'è problema. La prossima volta il vino lo porti tu e io lo metto solo la roba da mangiare. A me non c'è da fiare. Far che, fai qualcosa, far che. Così. Va bene signori, dai, ne approfitto a salutarvi. E domani si fa qualcosa, dai. Io vi saluto, vi auguro una buona notte, un buon 144 quando l'ho fatto. Un buon tutto e ci si riaggiorna. Ciao, buonanotte a tutti. Aspetta, stai con gli amici, Falchieri, ma stai con gli amici un attimino. A parte che ti ripeto, cosa vuol dire, mi volevi farti degustare, la prossima volta lo porto io il vino, passo da Antonello Barracuda a prenderlo. E vedrai. Quello è buono, tu, quello è buonissimo il vino, davvero, non sto scherzando, era una canonata quello, infatti Antonello quando lo sento glielo dico. Le do i soldi, me lo faccio prendere 5 litri, me lo metto nelle bottiglie e lo metto al fresco. In modo che quando capitano le occasioni c'è un vino da pasto buono di proprietà che si può anche degustare con la pesca in mezzo, capito, l'uva. Non rispondere. Ha messo in campagna. Qui sta viaggiando al cesso, te lo dico io. Ma il bello che mi dice a me non chiudere, non chiudere che... Oh, io ricordo, ricordo. Avrò fatto sino a 100 km. Come minimo. Va bene, dai, di nuovo. Buongiorno e saluti, dai. Ci si riascolta tra le migliori e le bellissime. Marchetto, Franco RT. Ciao, buonanotte a tutti. E a chi mi dà il tengo, dai. Fabri, ti saluto, ciao, te, buonanotte. Ti saluto, Fabri. Ho ricevuto tanto fatto, ma mattina ci ho indicato. C'è lo scavatore dell'aereo che deve fare un lavoro, ma l'ho lasciato alle 7 lì, devo alzare molto prima. Dai, vi saluto a tutti, buonanotte, ciao Massimiliano Bulldotte, sei ancora in ascolto, salutissimo al QRA, ciao Gavino, ciao Fabrizio, Antonio Franchetto, Antonio Grode, a te famiglia, giungano i più cordiali saluti, come diceva Mario Persico. E tutti quelli che sono ascoltano i canali 10. Buonanotte a tutti, ciao ciao. Sì, buonanotte Clara, buonanotte a te famiglia e buon trabacco per domani, ma non è mio figlio. Non bestemmiare Fabri, ma ho già figlio. Ma ho già figlio, devo andare la prima settimana di settembre, ma se non finisco i lavori che ho tutti incasinati, non posso muovermi. Adesso mi ho cantato un messaggio. Davanti alle 7 c'è lo scavatore all'aereo che deve fare uno scavo di una linea nuova. Era ora, finalmente, hanno deliberato. Mi tolto quello, mi rimane un altro lavoretino Martis e poi dovrei farci andare in ferie. Vediamo un po', Sant'Antonio mio, mi dici male siamo. Vabbè, allora, buon trabacco per domani e vediamo chi ci è rimasto, dai. Avanti, chi è rimasto sul canale? Come chi è rimasto sul canale? Ci sono io. Se ti abbiamo chiamato, dove ero? In bagno, Alberto in Campari. Cercare di sputare fuori il tappo, perché ogni tanto mi dimentico di strapparli. Ho capito. Gabba gabba, ma chi è andato via? Torre di controllo. Sì, torre di controllo e lui mi sembra Falchetto. Falchetto mi dispiace, torre di controllo un po' meno, guarda, perché madonna che personaggio che è. Io non lo sopporto, guarda. Tu considera che oggi stavo mangiando e stavo controllando le sue antenne, non ti dico altro. Per carità, proprio questo Claudio è insopportabile, guarda. Dite la verità, che se vi manco io voi non fate niente, quello che mangia controlla le antenne, tu che bevi e stai pensando a me, quindi va bene così, buonanotte a tutti, vi abbraccio, vi voglio tanto bene. Quindi buonanotte, ero lì in via Milano mangiando, sollevavo la testa, migliore gli facciamo un'incursione, l'è fatta. Dopodiché gli portiamo via gli apparati e gli lanciamo un Alan 100 Plus con quei microfoni, è presente che sembra un barattolo. Guarda, già tu sei venuto quanto, quindi io ho due baracchini, anzi tre baracchini vecchi, e poi non c'ho altro, perciò non è che mi puoi fregare niente. Ma un patrimonio c'è. Noi ce lo facevamo uno scherzo a uno di Plattamona, anche 22 anni fa forse, con me, avevo sentito parlare con Silvestro, con la gente di tanto, ormai questo non ci dovrebbe più essere nemmeno, andavo con un altro di Porto Torres a Plattamona e c'era questo qua, ogni volta passava il filo fuori, si vedeva, no? Questo CB, ogni volta glielo staccavamo, e doveva salire sul tetto a riattagganciare, a rifare, quindi ogni volta entrava in casa, incazzato, raccontava per i vicini, noi lo provocava, ma chi, ma come? E ogni settimana così via si andava a vedere il giorno che ci becca, che ci spara. Ma la cattiveria più grande era quella di mettere gli spilli nel filo di calata, che ti aumentavano lo stazionario e non capivi perché. Quello era famoso come scherzo. No, quello non eravamo così cattivi, noi non andavamo a fargli gli scherzi a scollegargli il cavo dall'antenna. Minchia quanto si incazzava. E poi quell'altro di Porto Torres, un altro che non faceva altro che provocato, ma chi è, ma come, ma tu? E questo si incazzava, raccontava, rimaneva tutta la sera incavolato. Allora che spedizione punitiva, una volta, uno, un paio di volte cioè, al mese più o meno, gli facevamo lo scherzo e così qualche sera ce la facevamo ridendo. Due minuti di bianco, un attimo. Dai, ciao a tutti, buonanotte. Due minuti di bianco. Mi ha dato un batti. Oh, dai, ci sentiamo domani, Fabri. Fammi sapere se ti consegna quella nuova vettura. Sì, speriamo, perché oggi ho visto la posta elettronica e il microfono l'hanno spedito oggi. È positivo, eh? Vabbè. Comunque sicuramente ne hai visto una parte delle antenne da via meno 26, la direttiva non si vede? Sì, che si vede, Shannon, io ho visto il riporo e lo devo prendere anch'io, su quello con calma, prossimamente ne discutiamo di un riporo del genere. Poi io ho visto la Mantova 5, è quello che è, e poi un'antenna per HF e per UHF e UHF, la verticale, e poi mi sembra di aver visto anche la direttiva per le UHF e UHF, non so bene. Sì, quella non ho veramente dalla IAGE UHF. Ma se hai visto anche Depo, hai visto come è fatto Depo? Ho visto, stavo guardando il dipolo, si vede il dipolo che parte da una parte all'altra del terrazzo. Hai visto come è fatto? Quello è 27 metri per braccio. Hai visto come è fatto tutto a barre verticali? No, ho capito, vedo questo filo nero, ho capito, è l'impolo, ma 27 metri, 27, e c'è quella lunghezza sul terrazzo. Intanto è 50 metri, 52 metri, tutto a barre così, no? Allora sì, che spettina, bello, e io... Ma un dipolo non si può montare anche con delle curve a 90 gradi belle grandi? Quello è invertita, questo lavora, te l'ho già spiegato, questo lavora in orizzontale, questa è una direttiva, è rotativo quello, è rotativo, ne hai visti gli anelli da una parte e dall'altra, e quello è così, quello è un dipolo orizzontale che fa i 10, 15, 20, 40 metri, capite, un quadribanda. Lavora in orizzontale ed è lungo 27 metri per braccio. Bello, sì, ho visto che è molto lungo, però non ho capito com'era. Non ho capito bene. Vabbè, ma tu lo spazio, io c'ho il terrazzo e per il dipolo dovrei andare nel palazzo di fronte. Può essere che quando si decido gli faccio un'incursione. Fabri, per tirare su quel dipolo che praticamente devo allungare anche i pali, perché ogni due volte è due metri da una parte e due metri dall'altro come altezza, e pesa più di 100 proprio la direttiva, perché già te lo metto come è fatto, ma lo devi vedere, ti devo fare il disegno. Ha tutto dei tubi in plastica, tutti verticali, capito? Che congiungono le bande e poi un unico cavo collegato al PL. Ma è fatto in una maniera eccezionale, guarda, è pesantissimo, tiene 3 kW, quello tiene 3 kW. Uguale a quello, se tu lo vuoi vedere, c'è il radiomatore che c'è sulla Filigheddu, Marco. Uguale a quello, precisamente, che a quello solo, che sua è monobanda, solo per i 40 metri. Infatti quello me l'ha dato lui, me l'aveva regalato lui quando praticamente ho deciso di fare HF, perché non ne stavo facendo. Capito? Me l'ha regalato lui. Uguale a quello, se tu vai a Filigheddu lo vedi, da un tralicio all'altro c'è quel tipo lì, uguale. Ho capito, capito. E anche io, se sto va bene, devo trovare una soluzione del genere. Adesso c'è un dipulino, però devo trovare una soluzione del genere. Un dipolo, però il problema è che non ho un grande spazio. Io ho uno spazio di 10 metri per parte, mettendolo a V si riesco ad arrivare. Però di più non so come fare. Infatti alla fine forse mi converrebbe una direttiva e via. Così, senza grandi pretese, però perché una bella verticale, c'è la 14 AVQ che non costa molto, costa un 300 euro ed è buonissima come antenna, buonissima la 14 AVQ ed è una verticale eccezionale, ti consente di fare di tutto e di più. Tu immaginati una Mantova uguale a una Mantova, però le cariche delle bande sullo stilo centrale verticale e basta, molto semplice da montare, è un po' più difficile da accordare perché ci sono tutti i punti da rispettare, ma c'è il manuale, quindi non ci sono problemi. Secondo me l'unica idea è quella, ovviamente un dipolo a V invertita 5 bande che si chiama la G5RV, che io ce l'ho, se ti serve te la posso anche dare, non ci sono problemi, perché l'avevo smontata la via Pasqua e avevo quella a scaletta. La G5RV è nata l'ha costruita un radioamatore continentale, io non mi ricordo di che città sia, e prende il nome del suo nominativo, capito? Perché lui è della zona 5 e quindi il dipolo che lui ha costruito, tra l'altro è in commercio perché ne ha venduto tantissimi, si chiama G5RV, che è il suo nominativo, e va molto molto bene. Quello va piazzato a 45 gradi, quindi a V invertita, ai bracci da poco più di 12 metri mi pare, però una volta che te lo tiri su, quindi recuperi in altezza e poi le fai la V invertita, e poi c'è una scaletta da 4 metri che deve andare in orizzontale, quindi in verticale al palo, dove tu poi attacchi il PL, e va molto bene con l'antenna, ti permette di fare di tutto a tasso zero praticamente. E quindi no, bisogna trovare io al momento anche adesso, e non mi dispiacerebbe, se la trovo la prendo. La soluzione migliore, perché ti ripeto, io ho un quadrato che sarà 9x9, quindi poi c'è il... lo dovresti vedere, comunque poi posso tirare su il palo quello che voglio, quindi io quello che esso è 10 metri per 10, capito, più o meno, quindi la distanza che posso coprire è quella, 10, 11, non di più. Ma no, vai tranquillo, che ci sta, 5 luci sta, perché io l'ho utilizzata in via Pascoli e col palo tirato su che era mi pare 6 metri, e il palo mi punta al palo e poi le calate andavano a coprire uno spazio di neanche una ventina di metri, forse 15-18 metri, capito? Quindi ci sta la grande Fabri, non c'è problema. Altrimenti l'alternativa sarebbe una bella verticale, perché anche io inizialmente volevo mettere una verticale, poi ho visto lo spazio e ho detto, ma perché devo mettere la verticale e non sfruttare lo spazio che ho? E quindi ho montato questo dipolo che è enorme, pesantissimo, ma ha una resa allucinante. stazione ne ho da 200 da spedire, proprio confermati al log, al computer, ma ha girato il mondo veramente, tipo Arabia Saudita, tutto. Ho fatto di tutto di più, 160-170 country confermati. Se arrivo a 200 esco sulla radio rivista delle DXC, quindi solo la manovria. Manovria a questo periodo perché c'è troppo caldo e accendere le radio HF e stare lì a chiamare, a fare, è un casino. Deve avere molto, molto tempo, e in questo periodo ne ho poco. Ho capito, capito, adesso mi attrezzerò anche io a prescindere da una cosa all'altra, cioè te l'ho detto. Quindi ma tu cosa mi consiglieresti, quindi una di queste verticali oppure questo di polo? Questo di polo lo trovi, non è che lo trovi facilmente. Io ti ripeto, se vuoi di polo io ce l'ho, non ho problemi, te lo vuoi, lo usi, lo colleghi ed è l'alternativa, se hai il posto è l'alternativa buona, perché di polo è molto, secondo me, più efficace della verticale. In alternativa, se ti crea problemi di spazio, puoi montare una bella verticale, ti ripeto, ce ne sono tante. Vai lì nel sito anche della Ultra Bin, c'è la verticale della Ultra Bin che è favolosa, addirittura è una direttiva verticale, perché sono gli stili che si allungano, si sollevano, come e accordano automaticamente col controbox sotto, e quella è una verticale, una grandissima antenna, costa sulla 900 euro. Quella è la numero uno in assoluto delle verticali, non c'è nessuna antenna che la possa abbattere. Le caratteristiche che ho letto io, è un tubo da 11 metri in polietilene da 2 pollici, 11 metri alto, è un bestione. Con una carica sotto dove poi praticamente ci va il cavo di corrente per alimentare gli stili che sono all'interno, che si sollevano e si abbassano da soli con la tua regolazione controbox da sotto, cioè il controbox elettronico dove tu pigi 14 metri, allora si solleva lo stilo dei 14 metri e va in accordata con l'antenna, 20, che sono i 20 metri per dire 14 mega, no? Ho sbagliato io, 20 metri, poi vai in 80, pigi, ti segna nel display 80 metri, stilo 80 metri, si solleva nel termo stile 80 metri. E così via, e si accorda automaticamente a tasso zero, proprio zero di stazionari. E qui vorremmo la controllo, se quando avevo l'acquisto, se io devo trovare, io non ho un problema di prezzo, trovare un'antenna che ti dia un'ottima resa con, diciamo, con lo spazio, un giorno che capita magari ti faccio vedere dove, quando sarà, ti faccio vedere dove la devi installare e vediamo, perché il dipolo, io sono per i dipoli, oppure come dici tu anche queste verticali, io non ho molta, sono un po' così per le verticali, a quel punto anche una bella direttiva e se ci sta metto un piccolo tralice e via. Se c'è il posto la direttiva deve avere il posto, perché la direttiva deve avere una direttiva per i 20, 40 e 80, già per i 40 devi avere il kit, altrimenti devi avere l'antenna monobanda, quindi un'antenna monobanda per i 40 è enorme, grandissima, ha un boom di oltre 10 metri, 8-10 metri, quindi non so come la fai girare lì, non so come la fai girare, io potrei mettere anche quella della Ultra B qua, che ha un boom di 40 metri, non ho problemi a farla girare, però lì mi sembra un po' troppo, non lo so, io andrei per una Ultra B verticale, sicuramente, su quello spazio lì, è un'antenna efficacissima, con una resa, ti ripeto, che è come una direttiva uguale, è una direttiva verticale che ha delle rese allucinanti, perlomeno. Provate e tastate da radioamatori con le contropalle, ti posso garantire che è la numero uno in assoluto, costa un pochino però è la numero uno in assoluto. Vai sul sito della Ultra Bin, tu clicchi ultrabin.it, ti appare tutta la pagina, vai sulle antenne e ti dà ci sono quelle verticali direttive e guardi, mi pare che costituiscono 900, 950 euro, una cosa del genere. Infatti ti ripeto, l'ho propenso io a prendere quella. E poi Marco mi ha dato questo tipo orizzontale e sono contentissimo lo stesso. Faccio 10, 15, 20 e 40, quello per gli 80 metri ce l'ho, non ho neanche piazzato perché 80 metri no, non ci vado quasi mai. E quindi va bene così. Dunque, fammi sapere, poi già ti do qualche dritta io, non c'è problema. Dai, di nuovo buonanotte, rinnovo i saluti a tutti e ci sentiamo domani. Vabbè, buonanotte, poi ti do il consiglio, se passi a casa ti faccio vedere. Io credo che invece la direttiva è così per il mio posto, perché da una parte c'è tutto lo spazio libero e dall'altra lo dovrei far vedere, secondo me devo riuscire anche a piazzarla, però magari è troppo invasiva per mille motivi e quella è solo, vado a vedermela. Dai, buonanotte, a domani. Aspetta un attimino, Claudio. Dimmi. Allora, adesso devo giustificare un attimino la mia assenza, o meglio la mia presenza a fasi alterne all'interno della ruota. E il problema è che ho invitato un amico a prendersi un aperitivo, questo alle 8 di questo pomeriggio. È venuto con una chiave inglese, si è avvitato a casa e sono passate 4 ore, mi ha svuotato il frigo e se n'è andato adesso. Quindi il piacere di parlare con voi era talmente grande che ogni tanto intervenivo e però mi dovevo assentare per una questione di educazione. Punto. Beh, siccome io sono una persona corretta ed educata, al momento in cui tu ti assenti e c'è Fabrizio in ruota, io non la sono sentita e lasciavo solo e quindi gli ho fatto compagnia, ci abbiamo fatto due chiacchiere reti al discorso di antenne. Ora che sei rientrato tu e spero ti inchiudi alla sedia, fai compagnia a tuo Fabrizio perché io mi sono da coricarmi, punto. Ma stiamo facendo il gioco delle bugie? No, perché hai detto io che sono una persona affabile ed educata. Va bene, buon QRT, buon 144. E ribadisco, sono una persona stabile ed educata, perché tu oggi non sei stato né stabile né educato, ci hai lasciato sempre da solo. So, e chiedo venia e ti chiedo scusa, però sai che scherzo e ti voglio bene. Anch'io sono Vauraggio. Anch'io ti voglio tanto bene, dai. E a mezzanotte domani la matta di Nevaia, tu dormi un pochino in più, me lo faccio ripeto e ho ricevuto un messaggio, cioè lo scalatore domani retro, devo uscire molto prima, dai. Ci sentiamo, tu. Domani ci aggiorniamo di tutto. Passa a prenderti quell'antenna, non te lo dico più, La prendo e la faccio a pizzi. Ciao. Ciao Fabri, buonanotte. Buonanotte, caro. E già tocca la cosa, l'autocrab stanotte vedi che tieni busy. No, non te ne andare. Lascialo andare che no. È vecchietto. No, non te ne andare. Ciao sonno, mi ha già chiamato Anna a fare compagnia. Ciao Chiara. No, allora se ti ha chiamato Anna, hai detto le paroline magiche, vai pure, buonanotte, con l'occasione di salutare Occhi di Gatto che ho capito essere in ruota, che te l'ho sentito, ben sentito anche a te. Ciao, buonanotte. Ciao Chiara, ben sentita. È capa di Roger. E riprendiamo il discorso. Allora, innanzitutto complimenti per la casa, Occhi di Gatto. Devo dire la verità, sono rimasto parecchio colpito dalla macchina. Chi li ha scelti i colori delle pareti? Chi vuoi che li abbia scelti? La signora. Qui insieme, la signora, li ho fatti io, ma... Capa di Roger, è molto simile, comunque abbiamo una casa molto simile, nel senso che... anch'io un soggiorno lì all'ingresso, molto simile alla tua anche come colori, nel senso che è un rosa antico all'ingresso come pareti, lo stesso pavimento diciamo che hai tu, dai. Mentre invece quella persona per l'apparato non l'hai sentito ancora. Oh, grazie per i complimenti, non ho sentito, sono passato ma non c'era, domani mattina dovrebbe esserci, vado a bussargli la porta e vediamo un attimino, tanto lo devi solamente stressare, però alla fine se lo stressi prima o poi qualcosa lo farà. Ascolta, ma tu l'hai già preso in mano il libro, sì? Sì, io l'ho già tutto studiato. E allora ti chiedo, cosa significa l'acronimo PTT? Non ce l'ho in inglese, infatti, come acronimo PTT. Quello che tu cioè con il tasto che tu schiacci per modulare l'acronimo PTT, che significa P.T.T. Cosa significa? Ma mi sembra che ho fatto anche così nemmeno nel quiz, questa domanda l'ho vista, ma cosa PTT? Ai, ma non è che non c'è lo Sparviero, se no l'avevamo chiesto a lui, eh. Sparviero, devo dire la verità, è chiara che mi ha fatto questa domanda, e ci sono rimasto male perché non ho saputo rispondere neanche io, o meglio, ci ho pensato, dopo un po' ho saputo rispondere. PTT significa push to talk. Comunque così che io qui, no, io me l'ho tutto fatto, come poi lo rileggerò con calma, ma io sto utilizzando questa tecnica e guarda, praticamente sto facendo così, il programma me l'ho già studiato, ma ti ripeterò cose che più o meno, escluso su alcune cose, forse dopo quello che era legge di Ohm, resistenze, condensatori, transistor, roba, conduttori, semiconduttori, questa roba che conosco già, NPT, PTN, tutta quella roba lì era tutta roba che conoscevo già, solo che se scendi, se quando inizi a studiare ti renderai conto che è pesante. E poi mi faccio i quiz e tutte le domande che sbaglio pure, che anche se faccio giuste ma non sono sicuro, me le segno e poi vado a ricontrollarmi l'argomento. Me le memorizzo anche dopo che le correggo, ma comunque mi ricontrollo l'argomento per memorizzarli perché ho sbagliato. E per esempio adesso sono circa 650 domande e quelle di quiz, le prime 200 non ne sbaglio praticamente nemmeno una, e adesso da domani, dopo domani, da lunedì inizio a farmi da 200 a 300 e magari un paio di giorni cerco di memorizzare e studiarmi comunque anche qualche domandina, poi penso più vai avanti sono ripetitivi, quindi spero di sbagliarmi di meno. Sacco di rogge, dai. Ma ti stavo dicendo, comunque guarda che con quell'apparatino, o meglio con quel baracchino, stai riuscendo davvero bene, ma il microfono non mi hai fatto vedere che cos'era. È l'MV9, come quello che tu solamente c'hai due tastini, per cui uno è dell'eco, l'altro c'è Roger Beep e l'altro amplificazione. Caparogger, è vero, no, me l'avevi presentato come MB+5, però è l'MB+9, perché l'MB+9 c'ha l'eco e il beep, assolutamente. No, perché esce davvero di potente, adesso non so con quanto stia uscendo a livello di watt e che cosa sia come baracchino, ma te l'hanno dato come muletto? No, quello è il baracchino che ho recuperato in garage, poi attenzione, io apro gli scatoloni, ogni tanto salta fuori, l'altro giorno è saltato fuori, infatti ce l'ho buttato lì un'altra volta e questo è un altro portato, ogni tanto nasce, ho tirato fuori anche un accordatore, un kilowatt, proprio quello per un HF e tutto quanto, è autocostruito, l'avevo, quindi l'ho rimesso a posto, dovrebbe andare, dovevo solo provare. Ogni tanto qualche cosuccia esce, ma è tutta roba vecchia, la mia storia è vecchia, io avevo iniziato avevo 16 anni, poi c'era la storia che avevo detto la speciale, poi non mi avevo mai fatto piazzare niente perché fu una cosa e l'altra, non avevo voluto continuare, io sono stato uno dei pochi amici che poi si era fermato lì il diploma e avevo iniziato a lavorare subito, quindi per ripicca adesso non monti quella, avevo preso il baracchino, tutta una storia vecchia, ecco, lunga, e quindi tutto conservo, alcuni conservati in scatola, regalati, tutto un macello, una storia vecchia, capito? Caparo, già si mi avete raccontato, ma guarda che anch'io avevo iniziato a modulare, tanto è vero che io del tuo nominativo mi ricordo, no? Negli anni, nell'86, perché avevo 14 anni, tanto è vero che la prima superiore bocciato per colpa del baracchino, perché non facevo altro che modulare, e uscivo con un Intec Fox 90 non omologato, che ho tutt'oggi, e un'antenna che era il massimo che ero riuscito ad acquistare dopo la Boomerang, era una mini Grand Plain caricata, che è alta 1,70 m, la tenevo al centro della stanza, quindi immaginati, non controllavo né stazionaria né niente, e comunque uscivo egregiamente per quelle che erano le condizioni della situazione, però non ho mai speso più di tanto, il raccordatore o rosmetro, diciamo, erano venuti molto dopo. Ho capito, no, ma io poi c'era stata la storia dietro, poi ho iniziato subito a lavorare e quindi l'intento perché mi era piaciuto il terrazzo, avevo ancora il pallino delle radio, qui posso fare, poi non ho più fatto niente. E quindi dopo 18 anni l'ho utilizzato, l'idea, la vecchia idea del ragazzino è tornato un attimino, per dirti, quindi è lunga la storia. Non mi hai detto però, ma i documenti tu li hai già consegnati per la domanda? No, ho fatto quello che mi hai detto tu, ho scritto un'email, così sono riuscito a mandarla, ho mandato un'email, adesso si aspetta l'email con tutti i documenti, cosa devo fare, cosa devo fare, cosa spedisco. No, mi sono dimenticato infatti di stasera, ascolta, ma com'era l'email vera? Allora, it.sardegna@ cosa mi ha detto? www.gov.it, cos'è quella parolina che c'era prima? Cosa economia, e se non mi ricordo com'era, cioè dovrei avere qua, però no, non è qua. Però vabbè, dai, fammi sapere, andiamo direttamente poi se vuoi insieme a cosa, alle porte centrali, perché non ho autenticato la foto, oltre che l'ha fatto il versamento, ho messo il versamento di 25 euro e la domanda appunto che ti spieghi, il facsimile della domanda compilato che ti spedisco loro. E adesso come mi arrivano faccio tutto e poi lo facciamo, la spediamo, speriamo di scendere a Cagliari, di tornare almeno uno vincitore. Almeno uno, ho bocciato i tre, no, vincenti vedrai, assolutamente, dai. Ma poi secondo me, ti ripeto, se sei abituato un po' a studiare, sai, se hai una memoria fotografica, tra l'altro parlavo con lui, devi fare almeno 25 punti su 30 domande, ogni risposta giusta vale un punto, ogni risposta sbagliata è meno 0,25, quindi per annullarti una domanda giusta devi farne 4 sbagliate, quindi dai, piuttosto se uno non se la ricorda è meglio non rispondere. Cioè, perché non ti dà voto praticamente, quindi devi fare, quante sono le domande? 30 e devi fare 25 punti. Esatto, però succede questo, se non rispondi è 0, se rispondi sbagliato è meno 0,25, quindi ogni 4 risposte sbagliate ti tolgono un punto. Ho capito, speriamo bene, vabbè la Jessica, vabbè, nel dubbio conviene rispondere allora. Beh, rispondere, in effetti è basso, la penalità è bassa, però. Ma poi ti ripeto, io credo di avere una buona memoria fotografica, è che non so se hai visto i forum su internet che dicono appunto che quest'anno, l'anno scorso questi dell'aria hanno falcidiato un po' di persone, proprio non so, è passata una sola persona, perché secondo questi di questo forum sembra che vogliano evitare che ci siano nuovi OM per evitare di intasare la frequenza. Non si sa, infatti dal presupposto che noi abbiamo dei commissari esterni che vengono anche da Sassari, se non sbaglio Vittorio Giova è stato un commissario esterno, quindi niente, non ci sono solo quelli dell'area di Cagliari, ma sono integrati anche da quelli dell'area di Sassari. Guarda, io credo che non sia così, perché prima di tutto in questo periodo non è più come una volta, io penso che anche su quelle frequenze lì stia morendo, quindi credo che non abbiano nessun interesse a crepare chi sta cercando di prendere la patente, anzi dovrebbe essere il contrario, e poi non dipende da loro, cioè tu fai un questionario, ecco, se va male non è che ci possono fare niente, voglio dire, insomma, quando ho capito chi decide le domande in parte sono questi dell'ARI, tant'è vero che questo commissario che era il presidente, l'ingegnere, non mi ricordo che cosa, consigliava uno per studiare uno dei libri che è stato redatto dall'ARI di Cagliari stesso, perché poi a quanto sembra chi decide le domande in parte sono loro, quindi sai, a seconda di come le fai le domande, tant'è vero che in questo forum criticavano il fatto che di teorico inerente alla radiantistica ci fosse davvero poco, bensì c'erano delle domande che il cui programma non era, a parte che non ti danno un programma, e già questo ti lascia un po' così. Ma parlavo con Antonio Alfabravo, se non sbaglio, e mi diceva che lui ce l'ha fatta e non l'ha passato la scorsa sessione. Si è rimasto male perché è arrivato lì e si è trovato un programma che minimamente poteva immaginare che ci fosse, secondo me, che non c'entravano niente. Però è successo un mezzo casino, un mezzo bisticcio, quando poi sono usciti dopo i commissari per dargli il risultato. Ma scusa, ma le domande, ma io non penso, allora, le domande sono ministeriali, credo. Se tu hai, c'è un libro dove ci sono tutti i test, questi test sono quelli che tu dovresti ritrovare, un po' come la patente, bene o male, di tutte quelle schede che tu fai, una di quelle ti deve capitare. Guarda, se hai un computer vicino puoi ritrovare facilmente questo, il test che è stato fatto, il forum su come le persone siano scandalizzate dal fatto che su 25 persone ne sia passato solamente uno. Basta che metti Cagliari esame radioattore e ti esce tutta una serie di forum che hanno fatto, perché è stato vergognoso, cioè su 25 persone che ne passi uno, o davvero ci sono 20, si sono presentati 25 asini, o realmente la cosa era abbastanza tribola e difficile, tant'è che questo qua diceva che dal libro che aveva studiato non avevano tirato fuori neanche una domanda. Ecco, se è così allora è un casino, voglio dire, perché ma qui non è come una volta era diverso, voglio dire, quando ero più ragazzino, ma nemmeno ancora prima, agli albori, diciamo, parliamo degli anni 55, 60, 65, 70, quell'epoca, quando i radioamatori, alla fine era tutta gente che le radio se le autocostruiva, le prime radio giapponesi sono arrivate non so quando, ma era proprio tutto sperimentale ancora, lì lo capisco, dovevi conoscere tutta la materia, ma per come funziona oggi la radio, che è poco da inventarti, prendi una radio, l'importante è che conosci bene o male la radiotecnica di base, sì, però voglio dire non così approfondita. Guarda, io ne parlavo giusto con Antonio Fabravo, io realmente giustifico anche queste persone, perché se vuoi fare danno, è vero che lo puoi fare anche senza patente, nel senso che come pirata ti puoi acquistare, questi sono i controsensi delle leggi italiane, puoi acquistare qualsiasi cosa e se vuoi fare danno lo puoi fare, però certo è che nel momento in cui ti autorizzano ad avere determinate radio a casa e tu fai danno, loro si sentono responsabili. Fare danno significa che nel momento in cui compri una radio che ha una frequenza continua, una ricerca continua, e puoi modulare in frequenze, ti permette di modulare in frequenze vietate, sai, se non c'è la stessa puoi realmente creare problemi. Tra l'altro non stai uscendo con 4 watt, se non sbaglio gli OM sono abilitati a modulare fino a una potenza fino a 400-500 watt, quindi sai, l'arma è diversa, devi stare attento, quindi è giusto che siano severi, ma non così severi. Io ti ripeto, non riesco a capire il motivo di questa severità, anzi io pensavo il contrario, veramente, anche perché pensavo che oggi prendere la patente era più facile perché, sai, la gente si allontanava, non è più come una volta, prima tu alzavi la testa e sul tetto vedevi in ogni rione decine di antenne, lì CB ce n'era una marea, quei CB erano quelli che passavano poi su altre frequenze, no? Oggi se ci sono così pochi CB è ovvio che di conseguenza ci sono pochissimi OM, perché i giovani si avvicinano pochissimo. Se tu guardi l'età media di un OM oggi è molto alta, forse sono intorno, i più giovani sono intorno ai 35-40 anni. Io leggevo proprio un articolo e mi sembra che il più giovane era un ragazzino, ma parliamo forse di 25-30 anni, per dire, no? E così allontanarli, e quindi pensavo che oggi come oggi era più semplice, perché volevano far avvicinare la gente, perché la radio sta morendo e la vorrebbero rilanciare, invece no, fare proseliti nei confronti dell'associazione, però cercheremo di far avvicinare il più possibile soprattutto le persone di giovane età, per fargli capire che comunque la radio, se vogliamo, può essere anche un qualcosa di istruttivo, innanzitutto perché ti fa capire che devi parlare uno alla volta, quindi quando ti insegna a interloquire con persone che sono a distanza, rispettarle sempre se gli dai buone lezioni, rispettarle, mettersi nella condizione di fare un discorso che abbia un senso compiuto, perché stai facendo realmente poi alla fine un monologo. Ma la bellezza poi anche della radio, la possibilità di poter parlare a distanza, forse noi l'abbiamo apprezzata di più perché allora non esistevano i cellulari, quindi sai, quello di avere un radiotelefono per noi era chissà che cosa. E soprattutto un'altra cosa, quella di mollare questo computer, che per molti, soprattutto ragazzini, è diventato un vizio, è diventata una malattia, dove sì, è vero, se usato bene è un aiuto per tante cose, non ultimo lo studio, però se usato male ti può fare davvero male, ti può creare davvero problemi, soprattutto dal punto di vista psicologico, e io credo che molti ultimamente ne siano colpiti. Lo so, però credo che avvicinare i giovani a questi apparecchi oggi è un po' più difficile, credo che sia un po' difficile, ma non è impossibile, è giusto farla conoscere. E quindi torniamo al mio discorso, che se c'erano prima, che ne so, 1000 cb a Sassari, magari 100 passavano, decidevano di fare il passo e prendere la patente. Se oggi, che ne so, ce ne sono 100 cb, magari sono 10 che decidono di prendere la patente, e quindi alla fine, anche se tu dai un giro, infatti vedi un giro anche in rete, gli apparecchi che sono in vendita sono sempre di più, perché anche su quelle frequenze ormai sta morendo. Io credo che anche gli OM siano un attimino anche loro un po' in agonia, non è come una volta, non credo che ci sia più il boom di una volta, e quindi non ho capito perché quando mi dà l'impressione che in questo periodo qualcuno qua in Sardegna si stia avvicinando, perché una sezione di 25 persone non è poco, invece di invogliarla e invogliarli, perché la vogliono bloccare, non ho capito il perché. Parliamoci chiaramente, quello che può interessare magari all'Ari, e quindi essere un controsenso, è che loro che magari mettono il bastone fra le ruote, non interessa all'esco opposto, chi comunque gestisce queste cose per quanto riguarda i permessi CB e i permessi degli OM. Obiettivamente, se tu gli liberi la frequenza, allora non può che far piacere, perché evitano di fare controlli sicuramente fastidiosi. Perché poi alla fine, al giorno d'oggi, la polizia postale cosa va a controllare? Le emissioni di determinate radio broadcasting soprattutto, e avere il fastidio di andare a controllare la persona che sta uscendo con qualche watt in più, che sta parlando in un certo modo, che non parla sulle frequenze autorizzate, per loro è un fastidio, anche perché parliamoci chiaramente, quanto contribuisce un OM o un CB alle casse dello Stato? Stiamo parlando di 12 euro e 25, mi sembra, adesso non vorrei sbagliare quanto è la concessione dell'OM, però non certo quanto una radio broadcasting, quindi se tu muovi una macchina, se muovi un mezzo per andare a controllare una emittente radio, sei comunque, ammortizzi comunque i costi. Nel momento in cui vai a controllare uno che usa il baracchino, stiamo parlando di 15 euro, lui contribuisce con 15 euro e tu quanto spendi poi per andare a controllare? Muovi un mezzo e del personale, va in completa perdita. Quello sì, però non credo, io non ci arrivo, non riesco a capire il motivo perché un gruppo di OM dovrebbe limitare l'accesso alla patente. Mi sembra un controsenso, cioè se io sono un OM, cioè, in qualsiasi settore, mi sta morendo il settore che a me piace, faccio di tutto per alimentarlo e non per farlo morire. A me poi mi leggerò questi forum, a me sembra strano. Beh, guarda, l'OM comunque nasce come persona solitaria, realmente loro si incontrano giustamente perché stiamo parlando di persone che sfruttano una certa potenza, che vogliono parlare a una certa distanza, quindi è normale che non vogliano parlare col vicino di casa, o parlare con una persona che sta a 30-40 km di distanza è relativo. Sono persone che, ed è quella la voglia poi anche la mia, quella di poter parlare con persone che sicuramente stanno in un'altra parte del globo terracqueo. E quindi è relativo che ci sia una persona che è vicina di casa, cioè loro sono persone tra virgolette solitarie, non fanno un QSO locale, quindi più siamo e più ci divertiamo, è relativo, capito? Non lo so, adesso vediamo, era venuto che io stia lì a martellare, perché se mi studio questo programma mi sigo convinto che poi le domande venivano prese dal... Infatti adesso voglio vedere, tanto io ho il libro delle domande, no, voglio vedere se quelle domande me le ritrovate sul libro, perché se non è così diventa veramente problematico. Guarda, io per non probire e non ubbidire, come si dice in francese, andrò un attimino da Vittorio a chiedergli quantomeno un consiglio. Poi, ti ripeto, studierò dal tuo libro, però gli avevo chiesto comunque le informazioni, quindi andrò a disturbarla, a vedere un attimino che cosa mi conviene, cioè su cosa conviene indirizzare l'attenzione. E poi pazienza, tutto può andare, ci passiamo una piacevole giornata a Cagliari, spendiamo 25 euro, buttiamo 25 euro più 14 in marca da bollo, una foto autenticata e ciccia, dai, ne può valer la pena. L'unica cosa è come, forse parlavo con te, forse ne parlavo anche con Alfa Bravo, cioè il fatto che qualsiasi esame ministeriale ti mette nella condizione, vedi quello della patente, di avere con una sola spesa due possibilità. Questo uno è a terra, No, cioè, non ti seguivo l'ultimo passaggio. No, nel senso che stavo dicendo che qualsiasi esame ti mette nella condizione, vedi quello della patente, con un solo pagamento, di avere due possibilità, cioè di poter fare due esami dopo i quali dovevi rifare la documentazione. Invece questo qua, uno è a terra, cioè o ce la fai oppure devi ripetere tutto da capo. Beh, ho capito, sì, quello sì, vabbè. Ma non è quello, il problema, io sono un pochettino scettico, no? Perché non ho letto niente, perché così ti hanno detto così sarà, e anche della Vittorio un attimino che lui ha partecipato, cioè lui fa da commissario esterno, e vedere un po', cioè più di lui, vedere l'aria che tira, se no, ecco, perché qualcuno mi aveva detto che per passare l'esame dovevi essere un ingegnere. Beh sì, ci sono poi quegli esami alla fine esagerati che servono più che altro per tagliare le gambe, a questo punto subentra di nuovo il discorso che hai fatto tu, cioè è una cosa inutile. È un po' come l'esame che ho dato io di medicina, dove per superare quel test di medicina dovevi essere già laureato in medicina, il controsenso, laureato in ingegneria, laureato in matematica, laureato in tutta una serie di specializzazioni che è assurdo, cioè io sto venendo lì per poter studiare, quindi sì, si dà il caso che magari sarebbe meglio che io avessi un'infarinatura che mi metta nella condizione di andare avanti subito, però da qua a farmi domande specifiche di cose che dovrei studiare in quella facoltà per cui sto facendo la domanda è assurdo. Ora, è al pari di questa cosa del radioamatore, cioè davvero, secondo come ti devi trovare ad avere un'istruzione tale che va oltre, e a questo punto nel momento in cui ce l'hai, per forza di cose non hai bisogno di fare l'esame perché puoi fare la richiesta. Ho capito, sì, quello sì, adesso vediamo, comunque vediamo questa sezione, scendiamo e ci proviamo, e che Dio ci mandi buona, se no pace, alla prossima. Capa di Roger, che Dio ce la mandi buona, vabbè, ti vedo basso di modulazione, come sono basso di modulazione io, quindi urge 144, quindi ben sentito, ben ascoltato, 7351, a te a cuore la familiare. Ci sentiamo alle prossime, buon cosa tutto ti ho detto, buon QRT quando adesso e buon 144 quando lo farai, e ci sentiamo alle prossime, fammi sapere realmente se ti arriva di ritorno quelle mail, dai. Ok, dai, adesso tanto io spengo tutto qua, un buon 144. faccio, mi controllo due cose al computer e poi io tanto mi devo stordire guardando la televisione se non riesco a dormire, poi dopo che mi stordisco apro gli occhiettini e allora che mi curi per proseguo nel mio letto se non riesco a dormire. Però io faccio una piccola spazzolata su in FM un attimino, vedo anche se c'è qualcuno in banda laterale, però sempre delle frequenze autorizzate. E... ma perché tu non sei in ferie o domani sei al lavoro? No, non sono in ferie, però comunque lo faccio orari un po' strani, quindi domani mattina sono libero. Capadero, Gellai. Electroman, ci sentiamo al più presto, buon 144, buon QRT e ci sentiamo alle prossime, te l'ho detto per l'ennesima volta, ciao ciao.